Poesia di Doraemon. Amore lancinante, corriamo il letto di un fiume. Un secco, apriti mare! I microorganismi fertili, giocandole rapide, limacciose. Un Doraemon! Tu sei, amore, gatto robot. Dalla tua tasca il telecomando dell'apriti mare. Doraemon, lancinante, in grado di viaggiare spazio-temporale. Mi porti per mano, mi afferri tra le gambe in volo. Mi porti via, mi porti avanti e indietro. Gatto, amore, robot, lancinante, Doraemon. Questo mondo fluttuante era già geroglifico. Dalla rottura delle acque, la gestazione eterna d'una sfinge su tavolette di cera, la striscia d'un gatto robot morto per annegamento. Requiem. Doraemon, piccolo amore mio, puzzone peloso, m'ero illuso di averti nella mia vasca da bagno. Invece preferivi leccarti. E poi io dimenticavo poi. Sei in grado di viaggiare spazio temporale, di tornare all'odore d'un tempo